amore non ne ribiglio. Per forza, lo mangive, fa di se stesso. Tutti i mangive che dati, i saganti, i proiati, dati dai animali, che ha potuto passare di nacca, come se dogna animale. Piglia lo cavallo, piglia lo bocco, piglia lo grigliello, è tutto fatto artificialmente, per cui saori non ha saori a dire, cosa? O manca per salvi. Grande da poco, avevo mi ha fatto una gana di fammi, io mi conosco, anche a me mi piacciono questi, ogni tanto me ne porto. E i soldi di uno li pigliamo, solo i soldi di uno si quello. Così, ma via, ma copiato di benzina, biglia uguale, nulla, non fa sapore e basta, ecco, così, a passare il dai. E vabbè, mi assento un quarto d'ora, vai. Ha fatto questo là che si è appoggiato di San Gabriele, mangiare i giappi, mi fa male, allora mi innalzo un po' carino, posso di bassi, per tu casa e da voi magari ti chiamo fra un quarto d'ora, va. E già lo hai acceso, lo lascio qua. E non è butti da sta poltrona, non sai chi sa dire di voi. Vabbè, ma è sempre bussato, gatta. Già mi sono dondolendo ogni tanto, però mi fate rimanere i giappi. Mi innalzo un poco. Vabbè, calma quando entri, lo faccio qua, c'è. Ehi.